America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo con un paio di notizie dal fronte afghano. Abbiamo avuto la conferma che Linda Norgrove, un ostaggio britannico, una volontaria civile, è stata uccisa da una granata americana mentre i soldati, appunto americani, cercavano di salvarla dai terroristi. In Medio Oriente, Benjamin Netanyahu rilancia: se i palestinesi riconoscono Israele, bloccherà i nuovi insediamenti. Ma il riconoscimento non doveva essere parte del negoziato e dunque i palestinesi hanno subito respinto. Un passo avanti, un passo indietro, direi. E questa è la natura dei conflitti, come ci aveva detto del resto una settimana fa a questi microfoni Stefan de Mistura, rappresentante dell'ONU a Kabul, con un invito: anche di fronte alle difficoltà è importante tenere i nervi saldi, perché alla fine si raggiungeranno i risultati cercati. Si sorride in Cile per il salvataggio dei minatori, non si sorride in borsa. Ieri è stata una giornata di attesa, così una pausa di riflessione dopo gli scontri valutari del fine settimana. E di questo, del post vertice economico a Washington, che vorrei continuare a parlarvi oggi. Beh, vediamo intanto il Dow Jones, è rimasto fermo, appena 3 punti al rialzo. Il Dow globale invece è sceso sempre leggermente, il dollaro si è rafforzato appena appena dopo altre parole minacciose di un funzionario del Tesoro contro la Cina. Passeremo all'azione, ha detto, e siamo scesi sotto quota 1,40 contro l'euro. Durerà? Ma non credo, perché poi alla fine queste parole servono al brevissimo termine, e anche il Fondo Monetario ha ammonito: dalla Torre di Babele passiamo al dialogo. Una Torre di Babele, era così che vi avevo descritto l'atmosfera degli incontri G7, Fondo Monetario, Banca Mondiale della settimana scorsa. Ecco, alla fine manca la leadership e in tutto questo l'America sembra un po' un animale ferito. Vorrei farvi sentire le parole di due osservatori di campo opposto: Peggy Noonan, ex autrice dei discorsi di Ronald Reagan, Joe Klein di Time Magazine, autorevole commentatore simpatizzante dei democratici. This morning, as I was coming here on what I think is the abstract truth, it's what he really believed. Vorrei anche farvi ascoltare un po' di rumori della parata di ieri che celebra il Columbus Day, la scoperta dell'America, festa grande per questo paese, per New York. Ecco, proprio ieri, quando si celebrava appunto la scoperta dell'America con questa parata sulla Quinta Strada, con una italo-americana, grande cronista finanziaria, tra l'altro Maria Bartiromo, a fare da Grand Marshal, Klein e la Noonan in sostanza hanno detto che in giro per l'America c'è sobrietà, quasi tristezza. Non ci sono posti di lavoro, non c'è nessuno che offre un modello. Obama non ha funzionato, il suo piano non ha funzionato. Manca una leadership credibile, manca insomma l'aggancio con quella vecchia tradizione di ottimismo, del guardare in avanti. E dunque dobbiamo chiederci: dov'è il cowboy, quella costante americana di abnegazione, altruismo, forza, appunto ottimismo e così fiducia nella nuova frontiera? Attenzione, il cowboy buono ovviamente, non quello vendicativo. To get it, we're finished, obsolete, over the hill. Eccolo, per farvi un esempio, il cowboy che troviamo per esempio ancora in Toy Story 3, il grande Woody nello straordinario cartone animato che è uscito nelle settimane scorse. Però secondo Klein, secondo la Nuna, nella realtà insomma questo eroe solitario in grado di trascinare le masse non c'è più, e il Tea Party non è certo una sostituzione. Il Tea Party è una manifestazione di protesta populista, di isterismo, non di saggezza, e dunque tutto questo contribuisce alla confusione planetaria e al dialogo tronco. Ecco, di questo ho avuto una conferma dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. Mi ha raccontato, quando ci siamo visti a Washington, di un incontro che aveva avuto venerdì scorso alla facoltà di legge di Yale, un incontro che l'ha colpito per un'apparente contraddizione, perché da una parte la globalizzazione, la sua governance procede a fatica, dall'altra uno dei più autorevoli giuristi americani che ha incontrato, Henry Huntsman, resta invece molto positivo sulla globalizzazione e propone una tesi molto semplice. Dice che Oggi i grandi tecnocrati parlano lo stesso linguaggio, l'inglese, vengono dalle più importanti università mondiali, hanno tutti studiato sugli stessi testi, magari hanno addirittura studiato insieme, e dunque per questo, grazie ai tecnocrati e ai politici che hanno punti di riferimento comuni, radici comuni, il paradigma della globalizzazione avanza su basi molto più solide, diciamo, di 20 anni fa, vero? Beh, non proprio, perché Tremonti osserva che basta vedere quanto sia dysfunctional il linguaggio del G20, perché osserva che se è vero che tutti parlano la stessa lingua, dunque l'inglese, che magari hanno studiato su testi identici, ciascuno dei 20 oggi, nel momento di questa crisi profonda, rappresenta istanze ed esigenze diverse, cosa che si riflette appunto in una difficoltà di gestione non da poco, soprattutto, ripeto, in un momento di crisi come questo. La istruzione, la sanità pubblica, cioè senza crescita le società si chiudono, diventano intolleranti, le democrazie vanno in difficoltà. Tremonti neanche ha approfittato per così, diciamo, accusare i banchieri di essere stati un po' troppo aggressivi, di essere tornati a operare in modo speculativo. Gli ha risposto Corrado Passera di Banca Intesa dicendo che sì, in fondo il ministro ha ragione, perché fa una distinzione fra bankers, che sono più aggressivi, e banchieri tradizionalisti, dice, come lui, come Banca Intesa, che non si lasciano andare a operazioni speculative. Andrea Beltratti, che è presidente del Consiglio di Gestione di Banca Intesa, invece fa un'osservazione molto interessante, dice: basta di fare il contromuro con la Cina, quelli non si smuovono, cerchiamo piuttosto di ottenere da loro concessioni. Un altro debutto a Washington è stato quello di Federico Ghizzoni, nuovo amministratore delegato di Unicredit. Devo dire, è stato molto rassicurante, ho chiacchierato a lungo con lui, mi ha detto che assolutamente Unicredit resterà italiana a tutti gli effetti, ha un sogno di sfruttare la località, diciamo la penetrazione locale della sua banca, in modo da poterne ottenere poi un networking internazionale che generi business. E comunque, insomma, nonostante questo ottimismo, anche lui dovrà negoziare, e credo in modo duro, con i tedeschi. Dunque il negoziato sia sul piano micro per le banche che su quello macro procede. La cosa interessante è che a un mese dal vertice del G20 che si terrà in Corea, e che i postulati oggi non esistono più, come succede in genere nei modelli in evoluzione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Inverted World era il titolo dell'album di debutto dei Shins. Ora, 9 anni di distanza, è diventato un balletto in scena allo Smuin Ballet di San Francisco, e dunque degli Shins ascoltiamo New Slang. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.